Vabbè, dai, ma ho sentito microfoni peggiori. Benvenuti al nostro Focolare Elettrico, il nostro podcast su videogiochi, game design. E io sono Marco. Oddio, pensavo volessi dire un'altra cosa. Io sono Marco. E quest'oggi abbiamo anche degli ospiti particolari. Qui presente con noi abbiamo già Edoardo. Ciao a tutti. Ho detto, purtroppo non gli ho fatto fare l'introduzione classica. E se abbiamo fortuna, tra qualche minuto ci dovrebbe raggiungere anche qualcun altro, un ospite ancora più speciale. Mi offendo. Addio. Ma partiamo subito, prima di mie eventuali digressioni sugli argomenti di questo episodio, con le nostre amatissime rubriche. Iniziamo subito con che cosa? Download updates? Sì, dai. E nelle ultime settimane, in realtà forse parleremo di cose un po' staccate rispetto alla vostra linea temporale, perché per problemi tecnici sono saltati anche alcuni giorni di registrazione, ma diciamo che in questi ultimi giorni ci sono successe alcune cose molto interessanti. Per esempio, Bethesda è stata ufficialmente acquistata dalla Microsoft, stavolta per davvero, e quindi tutti i proprietari di un Game Pass potrebbero avere qualcosa di molto interessante nel loro futuro, giusto Jacopo? Sì, Marco, grazie per... A lei il microfono. Il Game Pass è sempre più, come posso dire, allettante. Ma questa non è obiettiva del Game Pass, perché ancora non ci dà soldi la Microsoft. Quindi diciamo che quello che è successo è che sia gli Stati Uniti che l'Europa hanno confermato che questa unione non rompeva nessuna legge di antitrust. Ok. Quindi è come per dire... È troppo sfigata la Bethesda attualmente per essere una cosa minacciosa. E quindi hanno detto, va bene, potete sposarvi. E quindi si sono sposati. E quindi la prima cosa che hanno fatto, letteralmente, il giorno che questa acquisizione è diventata legale, tra virgolette, cioè burocraticamente effettiva, hanno fatto questo meeting di tipo un'ora, di persona, che è una cosa molto strana da vedere adesso. Wow. C'era solamente una tizia che era in chiamata su Teams, però cioè l'unica sfigata, capito, quella che parla sempre di Game Pass, così, certo, stava messa da parte. C'erano, vabbè, Pete Hines, che mi pare sia il CEO adesso di Bethesda, a un certo punto c'era Todd Howard, il mitico, ovviamente Phil Spencer, Aaron Greenberg e la tizia quella, mi pare Ossi, non mi ricordo come si chiama, della Bethesda. E hanno un po' detto tutto, cioè quello che ci aspettavamo, cioè per mesi hanno girato intorno alle domande tipo: ehi Phil, ma saranno esclusive i prossimi giochi Bethesda? Ma non lo so, qualcosa forse. Il primo giorno sì. Cioè, la prima domanda, tutti i prossimi. Quindi mi stai dicendo che Elder Scrolls 6 esclusiva Xbox, è questo che mi stai dicendo? Cioè, non hanno detto esattamente i nomi, però hanno detto: se non c'è un'obbligazione contrattuale, e se non è un gioco, diciamo, che ha già una community, no? Quindi tipo Fallout 76, The Elder Scrolls Online, che esistono già su altre piattaforme. Certo. E ovviamente per quanto riguarda gli obblighi contrattuali parlavano di Deathloop e Ghostwire Tokyo, saranno esclusive. Hanno detto saranno esclusive su piattaforme che hanno il Game Pass. Quindi se lo Switch ha il Game Pass, tu puoi giocare a Elder Scrolls 6 su Switch, altrimenti probabilmente no. Quindi, interessante come questa cosa interessante. Beh, di cose interessanti non ho detto poche, cioè il resto era tutto un po' un supercazzo. Però questo vuol dire che, come dire, parlavamo qualche puntata fa della console war, di come la Sony ci avesse un po' la furbizia, appunto, di comprarsi delle esclusive, e quindi sembra che anche un po' Microsoft stia forse imparando dai suoi, tra virgolette, errori. Vedremo. Cioè, adesso pare di sì, cioè per adesso pare che, cioè, se 20 adesso vale il Game Pass, ci stanno quasi tutti i titoli di Bethesda. Ci sta tipo Fallout 76, Fallout 4, cioè mi pare Fallout 3 già da un po', Skyrim, Doom Eternal, ci sono tutti, cioè perché già tipo dal giorno dopo di questo meeting l'hanno messi su. Se davvero il prossimo Elder Scrolls e il prossimo Fallout e anche mettiamoci pure Doom, Fallout sono esclusive del Game Pass, cazzo, cioè sono dei bestioni, nel senso, cioè non è a livello di qualcosa, secondo me, come può essere, non so, Assassin's Creed come numeri, però siamo lì come, cioè, come peso, insomma, vedremo, potremmo avere delle sorprese in futuro, no? Ma sì, parlando di... Aspetta, un'ultima cosa. Certo. Non mi ricordo. Hanno detto un'altra cosa che... Ah sì, hanno detto tipo quest'estate ci saranno novità su titoloni. Però vabbè, lo sapevamo già. Voglio dire, nel 2020 non è che abbiano annunciato molto, in effetti. E questo è quanto. Però adesso... Diciamo, ma parlando di... Mentre alcune aziende... come dire, prosperano, altre, forse un po' meno in questo caso. Qual è il contrario di prosperano? Appassiscono? Ci può stare. Antisperano? Mentre lo cerco online, tu annuncia la notizia. Esatto, la notizia è che Anthem ha chiuso le porte. Mi dispiace. Cioè, si sapeva che... questi giorni stiamo decidendo il destino di Anthem e pare che il destino sia sottoterra. L'altra notizia è che Stadia ha chiuso i suoi studi di sviluppo di first party, quindi non ci saranno più titoli esclusivi sviluppati da Stadia. Forse non ci sono mai stati, non lo so, cioè, nel senso, non si hanno fatto in tempo a far uscire qualcuno, perché tutti i giochi di sviluppo, ce n'era tipo uno di sviluppo della tizia che ha creato Portal, ce ne stava uno della tizia che ha creato Assassin's Creed, cioè c'erano tanti giochi di sviluppo promettenti, chiuso. Il giorno prima gli dicevano: oh sì, bravi, bel lavoro, bel gioco. Il giorno dopo no, andate a fanculo, siete licenziati. Stadia si concentrerà come servizio, cioè si concentra sul pubblicare titoli di altri publisher, insomma, invece che svilupparli. Ah, ok, quindi siamo ben chiari, è stata chiusa solo la parte di game dev, di sviluppo di Stadia. Sì, ma non è un buon segno. Non è un buon segno, di sicuro, no? Diciamo, mentre aziende prosperano, queste sembrano appunto crollare, decadere, fallire, o perlomeno anche languire in questo caso, giusto? Come ho cercato i contrari. Merda. Quindi, vabbè, questo sì, cioè volevamo parlare anche di State of Play, Nintendo Direct, ma sono troppo vecchi. Sì, ormai è passato un po' di tempo, poi non so, giusto per continuare un po' quella scusa che siamo un podcast anche di divulgazione di notizie, no? Anche se arriviamo tipo 2 settimane in ritardo, sì, rispetto quando ormai le notizie non hanno più senso, però noi possiamo magari osservare queste notizie con gli occhi di chi appunto ha avuto l'opportunità di analizzare, vedere le conseguenze di una notizia, no? Possiamo darvi un servizio più completo, mettiamola così. Attenzione, pare che... E forse è arrivato anche il nostro secondo ospite. Esatto. Vediamo, forse. Giusto in tempo per la nostra seconda... Per la nostra piccola seconda rubrica, esatto, in cui parliamo dei giochi che abbiamo giocato in queste ultime settimane. Facciamo iniziare gli ospiti a questo giro. Mentre aspettiamo che arrivi il secondo ospite, magari cominciamo noi. Vai, Marco. Beh, come raccontava Jacopo qualche giorno fa, io ho trovato una nuova assuefazione, una nuova droga in Loop Hero. Un gioco in grafica old style, mettiamola così, fatto da una piccolissima software house chiamata Four Quarters, che ha veramente spaccato i culi. Beh, siamo sinceri, ha avuto un notevole successo, visto anche il genere di gioco, che è una cosa un po' più di nicchia, no? Dove ci sono i pazzoidi come me che ci perdono 50 ore in una settimana e... appunto non è proprio, non sembrerebbe proprio il gioco per tutti, perché è il classico roguelike con meccaniche di deck building e anche un po' di auto battler, quindi molto carino, molto crea molta dipendenza, ecco, e se vi capita provatelo, stava anche, era anche in sconto fino a qualche giorno fa su Steam, ma forse adesso non lo è più. Cito la reazione di un tizio che ha cominciato a giocarci poco fa. Oh no! sì, pare sia molto bello. Infatti, pure a me sta un po' tentando di iniziare. Aspetta, chi è il tizio? Non sono Ancora un tizio, un altro podcast. Ah, ok, capisco. Un altro universo narrativo. Esatto. per quanto mi riguarda, sto giocando Assassin's Creed Valhalla. C'è tanto da dire, ma penso faremo un episodio a parte su Assassin's Creed, quindi magari ne parlerò lì. All'inizio non mi stava prendendo, poi ci sono un po' entrato, adesso sto un po' in fissa, ho fatto tipo 26 ore in qualche giorno. Ed invece l'altro titolo di cui invece possiamo parlare un po' di più è un titolo che mi ha consigliato Marco, che si chiama El Taker, mi pare. Sì, El Taker, se non ricordo male. Non so se vuoi descriverlo tu, perché io lo descriverei come un rhythm game dove non serve avere ritmo, dove vuoi fare un harem di ragazze anime demoniache, però è femminista. Cioè, cosa ha senso? Guarda, in realtà è proprio quella. A me piacciono queste stranezze, queste piccole perle nascoste, chiamiamole così, che effettivamente, un po' come Loop Hero, ha mischiato vari generi, in questo caso un puzzle game, un po' di puzzle game, un po' di reading game, un po' di dating sim, tutto in un'avventura che dura circa, ma neanche un'ora mezz'ora. E mezza, due ore, sì. Proprio... Ah, se sei bravo mezz'ora, sì. Se sei diciasso come mezz'ora. Con appunto questa storia con questo protagonista che appunto che vuole andare all'inferno per crearsi un harem di affascinanti demoni, demonesse, che sembra la classica cosa da... Come dire, il classic, più il gioco soft porn che si trovano online, no? Ma invece è tutto preso molto con comicità, nel senso è una visione molto comica di questa cosa. E alla fine è tutto più basato sul umorismo e varie ridicolaggini piuttosto che una vera e propria storia seria. Molto carino, molto divertente, dura poco. È gratis, più di così, che cazzo vuole. Edo, visto che il nostro secondo ospite ancora non si palesa a noi, nonostante sia entrato, se ci stai ascoltando, prego, il signor Luca, rivelati. se vuoi presentarti velocemente, poi ti chiediamo giusto se hai... se hai giocato qualcosa queste settimane di cui volevi parlare, altrimenti vabbè, continuiamo per ora con Edo, poi vediamo. Sembra essere timido il nostro ultimo ospite di oggi, quindi... Ah, ok, va bene. Allora andiamo avanti con Edo. Ok, è un ospite molto strano, è più... Come dire, più un pubblico. Ascoltatore di anteprima, in anteprima, ecco che cos'è, non è un... non sappiamo quanto parteciperà quest'oggi. Ah, ok, va bene. Però intanto Edo, se tu vuoi dirci cosa hai giocato queste ultime settimane, prima di passare al nostro tema principale della puntata. Allora, io, vabbè, che ve lo introduco anche un po' alla fine dicendovi cosa ho giocato nelle ultime settimane. Ma, allora, ho sfruttato degli sconti su Steam... Ed ho deciso di riprendere ancora la remastered di Final Fantasy X-X2. Ah. Quindi, diciamo, per non so quale sia il numero di volte. Un'altra avventura di una oretta circa, giusto? Sì, esatto. Che un gioco molto breve. Quindi... E ho deciso di ripartire da capo con Final Fantasy X. E poi ho ripreso in realtà in mano un gioco da cui non giocavo da... Cioè, sembra assurdo, ma non giocavo da tempo, ovvero League of Legends. Ah! Mi sono risparato un paio di ranked, cose così, con risultati, diciamo... pressoché disastrosi. E in realtà, diciamo, adesso in TFT, vabbè, che livello sei? Ti sei lasciato andare o TFT ancora diamante? Ho giocato, no, purtroppo ancora non sono riuscito a tornare in diamante, sono platino. Ci stiamo lavorando, anche se ammetto che questo set mi ha un po' deluso. Cioè questa, diciamo, seconda parte di set 4, quindi set 4.5, mi ha un po' deluso per il momento, ma vedremo un po'. Ora dicono che sia la patch più bilanciata di tutto il set, il quarto set, quindi diciamo mi riservo un po' il diritto di giocarci e vi saprò dire meglio prossimamente. E poi Halo, un po' di multiplayer, diciamo in maniera molto molto tranquilla, niente di troppo impegnativo. Molto bene, quindi sei carico per, cioè, beh, sei pronto per questo episodio? Beh, certo, ovviamente. Allora, dovete sapere che questo episodio si chiama Rantalo, esatto. Rantolo, perché è il nostro nuovo episodio della serie Rant, che è iniziata con... molto amata, Rant, molto... Esatto, molto... molto seguita, che è iniziata con il Rant su Pokémon. Io, al contrario di Marco, non mi sono preparato 20 pagine di script da seguire sulla storia della mia vita e sulla storia di Pokémon, perché io sono da nessun Pokémon. Mi sono preparato 40 pagine sulla storia di Pokémon. No, vabbè, diciamo che siamo qui perché io, Edoardo e Luca siamo appassionati della serie e l'abbiamo un po' vissuta mentre durante la nostra infanzia, adolescenza, adultaggine, eccetera, adultità. E Edoardo addirittura è uno streamer. Adultazione, che... credo sia. Edoardo addirittura è uno streamer che potete seguire su twitch.tv/xbadipox, mi sembra. Giuro che non li ho pagati per la pubblicità. Ma lo pagherà poi, non vi preoccupate. Da parte del Team Tech Games e di Halo Infinite Italia. E, ma grazie. Praticamente spesso lo vedrete fare live anche con altri, tipo Vorla e Busberry, eccetera, su Halo, sia sulla lore che su multiplayer, giocare multiplayer. E noi stiamo anche preparando una saga sulla storia di Halo, che prima o poi uscirà su YouTube. Insomma, siamo abbastanza dentro Halo. E quando qui... è pronta? Cosa sono queste pretese da parte del pubblico? Esatto, quando è pronta, come faremo come Cyberpunk, uscirà, esatto, quando è pronta, però prima. Però poi... Esatto. Allora... Questa puntata è perché, come Marco ogni volta mi rompe le palle su Pokémon e finiamo per parlarne sempre un'ora e mezza, e così non è vero. Credo che sia uno dei motivi per cui seguono il podcast, e non so perché ti lamenti, Jacopo. Così tanti, sappiamo che tante persone seguono il podcast. Io mi lamento con lui, cioè ne parlo con lui di Halo, non mi lamento, ignorate quello che ho detto. Rantolo. Volevo iniziare però, siccome Marco non sa molto di Halo, ha giocato qualcosa ma non si ricorda, insomma non è patito come noi, dillo chiaramente, cioè, veramente non so quasi un cazzo della serie, sono completamente ignorante. Appunto, partiamo da quello che sai, quindi, cioè, volevo iniziare chiedendoti, dici, senza, allora, noi non ti giudichiamo, o almeno non ti giudicheremo cioè in maniera che puoi ascoltare, che puoi sentire, ti giocheremo in silenzio. Ok, solo Dio può giudicarmi. Okay. Allora, parto dicendo che ero mezzo tentato all'inizio, per questo mi avete anche sentito un attimo indugiare quando ho introdotto la puntata, sul fare la battuta veramente idiota di che parlavamo di Halo, il singolo di Beyoncé questa settimana. Però poi mi sono morso la lingua e ho detto, no, dai, no. Troppo da boomer questa battuta, però ci tenevo, non posso non dirla questa cosa. dovrò pur in qualche modo alimentare il mio ego, no? Ma parlando di cose serie, tra virgolette, di Halo... Cosa fai? Esatto. Che cos'è Halo? Che cos'è Halo? Allora, io conosco Halo dal punto di vista, tra virgolette, accademico, possiamo dirlo così, nel senso che Halo ne ho sentito parlare sempre con quella gloria, quella fama di essere stato un gioco rivoluzionario e che ha appunto cambiato il panorama degli sparatutto in prima persona, e mi sono anche ogni tanto un po' forse informato, leggendo qua e là, di quali sono state le grandi innovazioni, la grande rivoluzione che ha portato proprio da un punto di vista di game design, perché è di quello che un po' mi interesso e di cui parliamo in questo podcast. Quindi lo conosco principalmente così, di fama. Sto arrivando, fammi parlare, fammi introdurre tutto il discorso. Sai che mi piace il suono della mia voce. Però, come dicevo, qualcun altro, però non va bene. Però, come dicevo, io degli sparatutto in prima persona veramente mi sono sempre stati un po' sulle palle, non mi sono mai piaciute, anche perché ho una coordinazione mano-occhi pari a quella, credo, di un ippopotamo ubriaco, e quindi non è mai stato il gioco per me. Okay. Come diceva Jacopo, ho giochicchiato qualcosa, credo, non sono neanche sicuro di ricordare bene, fosse Halo Reach o Halo 3, non sono sicurissimo, e l'ho trovato effettivamente divertente, ci avevo giocato sulla 360 tempo fa. Di Halo so questo: il protagonista principale si chiama Master Chief, si chiama Halo Guy, pensavo... si chiama Master Chief, è un umano geneticamente modificato come per essere un super soldato praticamente. Ok, cavolo. C'è un'intelligenza artificiale che si chiama Cortana, che poi è stata venduta alla Microsoft. Ora lavora per Bill Gates. Bravo. Esatto, ora lavora per Bill Gates. C'è, se ho capito bene, un insieme di razze aliene chiamate i Covenant. Cavolo! Sono state tradotte male in italiano con un nome che non c'entra un cazzo, se ricordo bene. In un filmato si chiamano Alleati, però possiamo ignorarlo. Mm-hmm. Ci sono questi Halo che io sono arrivato a intuire fossero delle specie appunto di anelli di... c'è delle stazioni geoformate nello spazio, almeno avevo intuito fossero quelli, ma non sono sicurissimo su questa, che siano effettivamente quelli oppure l'Halo sia qualcos'altro. E si spara. Sai tutto, ma del gameplay si spara. No, nel senso, nella lore so queste tre cose che ti ho detto in croce. Nel gameplay so che si spara, so che hanno fatto, c'è stata molto la meccanica rivoluzionaria dello scudo, delle varie, del poter tenere solo due tipi di armi, e varie altre cose che penso che di nuovo parlerete più in profondità voi, quindi non voglio dare... Però in quanto alla mia lore, io so questo, cioè c'è il Master Chief con Cortana che gli parla nella testa e va in giro a sparare agli alieni. Temo che le mie conoscenze di storia si fermino qua, in questo momento. Okay. Vabbè, è tutto quello che c'è da sapere alla fine. È tutto. A me piace la sintesi. Manca una cosa che non hai detto. Ok. La tuta di Master Chief non gli fa una sega. Questo è molto importante di lore. Cioè, quando Master Chief è nella tuta, la tuta non gli fa le seghe in automatico. Ah, ok, letteralmente non era il termine, la frase non mi fa una sega, nel senso non mi fa niente. Proprio letteralmente una sega. Proprio, è letteralmente non lo stimola sessualmente, esatto. Buono a sapersi. Questo è molto importante da sapere. Me lo segno, aspetta che... Quindi a questo punto lascerei... passato? La sufficienza c'è, il 6 ce l'ho in pagella o... Sì, direi di sì. Di roba, pensavo... Okay. Catroia, ho detto i nomi dei tre protagonisti principali, Master Chief, Cortana e Covenant. Cioè, hai detto cose che appunto, cioè, i Covenant cosa sono, l'Halo che cos'è, cioè, hai detto un sacco di... Ok, quindi... Ah, l'Halo ci ho preso? Non ero sicuro, è figo. Detto questo, ti faccio una seconda domanda. Perché, secondo te, Halo... Però un po' gli hai dato una risposta, cioè... Perché ha avuto successo? Cioè, perché è rilevante? Mm. O è stato rilevante, a seconda dei punti di vista che potresti avere? Come dicevo, guardandolo sempre da un punto di vista molto di game design, sono assolutamente d'accordo quando dicono che effettivamente ha rivoluzionato il mondo dei videogiochi su degli sparatutto su console, effettivamente, perché ha avuto delle idee veramente geniali, quello della doppia arma, dello scudo che si ricarica col tempo, dei controlli che sono molto efficaci con il controller dell'Xbox, no? Che poi nasceva appunto come titolo di punta, la punta di diamante dell'Xbox. E quindi sotto quel punto di vista sono assolutamente d'accordo. Poi da quanto ho sentito, perché anche lì è tutto un vociferare, sì, perché non ho mai avuto l'occasione di provarlo, il multiplayer ha spopolato, giocavano tutti ad Halo quando si erano stancati, quando forse so per dire una minchiata, quando si erano stancati di Modern Warfare. È uscito prima Halo o Modern Warfare? Prima Halo. Non sono sicuro. Ok, perfetto. Ancora prima che Modern Warfare cercasse di avesse il successo che aveva, Halo aveva già spopolato. Poi è diventato un po' un'icona della pop culture, no? C'è la serie famosissima Red vs. Blue che ha spopolato stavo per dire YouTube, ma penso sia nata fuori da YouTube. Adesso quasi sì, torna agli inizi anni 2000. Ho sentito quello apposta. Già, cazzo, conosci pure le serie Machine? Beh, appunto, cioè, quello è talmente intrinseca nella pop culture, nella cultura popolare, che penso sia un po' impossibile per uno che ha passato tutte le sue ore, che ha sprecato tutto il suo tempo su internet come me, che non conoscere certe cose. E... Ah, lo dici per i meme con Caboos? Ma tra la... meme... Sì e no, nel senso, semplicemente uno che stava su internet tutto il tempo che ci stavo io di quei tempi, è impossibile letteralmente che non abbia visto qualcosa riguardo a... perché andava veramente, era il prezzemolo di quei tempi, no? Andava su tutto. Cioè. E... mi confondo sempre, il prezzemolo o l'origano? No, è il prezzemolo che va con... Scusa. Quindi sì, nel senso, io conosco Halo più forse di una persona, di un tizio che incontri per strada, no? Anche perché... Non sì, so, sì, sì, certo. No, però... adesso, però... tutto molto superficialmente, è un po' come uno che conosce la Marvel solo perché ha visto i manifesti dei film fuori dal cinema, ma non è andato mai a vederne uno, mettiamola così. Che schifo! Che schifo! Anche qui c'è un po', c'è seccato. Cioè... Quindi niente, la puntata è finita, non ci abbiamo nulla da dirti. A posto. Ho vinto io! No, allora, prima di fare, diciamo, il nostro lato della questione, diciamo un attimo da dove veniamo, insomma, qual è la nostra prospettiva, perché va un po' filtrata la nostra opinione in base a questo, no? Cioè, dovete un po' aggiustare la mia... Certo, come quel bambino in macchina con Pokémon giallo, dovete introdurre esatto. Chi eravate. No, adesso ricaccio un attimo lo script. Allora, no, appunto, la mia prospettiva su Halo è quella di una persona che ci è cresciuta. Io sono stato abbastanza, lo sono ancora, vabbè, sono abbastanza un fan di Halo e di Xbox. Ho avuto la prima Xbox originale, in realtà non con Halo al lancio. Ci ho messo un po' a capire che non era... Cioè, dalle prime immagini che vedevo sembrava un gioco tipo mezzo horror, non so per quale motivo, con dei mostri, cose strane. Poi ho capito che in realtà era un gioco horror con dei mostri, cose strane, ma ci mettevi un po' per arrivarci, quindi nel frattempo ti eri affezionato, cioè eri contento di giocarci. L'ho conosciuto tramite, vabbè, pubblicità dell'Xbox su giornali, su TV, addirittura passavano ogni tanto pubblicità di Halo. E perché un mio, diciamo, compare, un mio amico dell'epoca l'aveva comprato prima di me per la sua Xbox. Si posso aggiungere solo una cosa? Effettivamente, ecco, mi ero dimenticato che alcune delle pubblicità di Halo sono diventate iconiche quasi quanto il gioco, perché anche sì, lì sì, non ci avevano speso un po' di soldi, forse la Microsoft, per pubblicizzare. Sì, i trailer di Halo sono, cioè i trailer di Halo che non sono presi dal gioco di solito sono quelli che spopolano di più. Ma non volevo interrompere, continua. No, vabbè, sì. E da lì poi, insomma, dopo aver giocato al primo Halo mi sono appassionato, ci ho giocato un po' in ritardo perché mi ricordo che per me l'attesa tra Halo 1 e Halo 2 è stata tipo di un anno e mezzo, una cosa del genere, però ovviamente quando sei bambino ti sembra un'eternità, e mi ricordo che presi appunto Halo 2 al lancio, e penso che Halo 1 e Halo 5 siano stati gli unici due Halo che non ho preso proprio esattamente al lancio, non ricordo male. Halo 2, cioè mi ricordo che uscì tipo a novembre nel 2004, mi sa, anche in Italia. Ci persi la testa, cioè stavo completamente immerso, non volevo quasi continuare a giocarlo perché non volevo finire la storia perché mi stava piacendo troppo il gioco, non volevo finirmelo subito. Ed è stato, tra l'altro, forse uno dei primi giochi che ho giocato online su console, perché poco prima di comprare la 360 nel 2005 riuscii a connettere la vecchia Xbox a internet con uno dei primi router. E quando non chiamava nessuno a casa potevo giocare e da lì sono un crescendo, cioè da Halo 2 ad Halo 3 è esploso, cioè come un po' la storia che sentirai da tutti, cioè per molti la storia è iniziata con Halo 3, cioè la storia personale che hanno molti fan è iniziata con Halo 3 e si è rafforzata con Reach, perché appunto Halo è, abbiamo parlato un po' troppo prima di dire esattamente cos'è, però è una saga di più capitoli, alcuni principali, altri spin-off con un prequel. Quindi abbiamo Halo Combat Evolved che è il primo, Halo 2, Halo 3 e poi è uscito il prequel Halo Reach, e poi Halo 4, Halo 5 e Halo Infinite. Questi sono quelli principali, diciamo. Poi ci sono degli spin-off tipo Halo 3 ODST, che è una storia tra durante Halo 2 però con altri personaggi. Diciamo che in questo episodio parleremo principalmente della saga principale, anche se io personalmente penso che Halo 3 ODST sia uno dei migliori e amo anche tipo le versioni, gli Halo strategici che sono Halo Wars e Halo Wars 2. Quindi la mia storia è questa, essenzialmente Halo è la mia serie principale, mi piacciono molto di Sparatutto e Halo è lo Sparatutto che preferisco come gameplay e come storia. Ho letto libri, ho giocato qualsiasi cosa della saga di Halo, visto filmati con teorie, cose strane, cioè sono quel tipo, insomma, di fan. E sì, cioè appunto ho anche giocato in multiplayer come un dannato invece di studiare al liceo. Edo, vai con la tua storia della vita. Ok. Su Halo. Allora, la mia storia con Halo in realtà inizia in un modo abbastanza troll, divertente, stupido. Jacopo probabilmente si ricorderà che sostanzialmente io comprai il primo Halo Combat Evolved, mentre eravamo in vacanza studio in Inghilterra, e la cosa bella è che, cioè ragazzi, pensate un po' l'assurdità della vita, in quel negozio c'era solamente la versione per Mac di Halo Combat Evolved, e io pensai, vabbè, ma magari funzionerà ugualmente anche su un PC normale. Comunque ragazzi, stiamo parlando di 2000 2003, sì, esatto, forse 2003, non ricordo. Ho detto, vabbè, provo a comprarlo lo stesso, funzionerà ugualmente. Erano i pensieri di un bambino, di un ragazzino di 11 anni, di 11 anni, sì, qualcosa del genere. E ovviamente non funzionò un cazzo di niente. quindi dovetti ricomprare poi Halo Combat Evolved in Italia con calma poi, e quindi io iniziai a giocare ad Halo in realtà su PC, non su console, e all'epoca giocai la campagna, in multiplayer no, perché boh, cioè all'epoca l'entrare su internet, cioè il connettersi online, era visto ancora come qualcosa di oscuro, pericoloso e minaccioso, e anche perché, cioè, insomma, giocavo con un portatile vecchio di mio padre che non aveva cioè, insomma, non sapevo neanche farlo probabilmente. Da lì poi in realtà la mia storia con Halo si è interrotta per molto tempo, perché io avevo la PS2, non avevo l'Xbox, quindi non ho giocato ad Halo 2 direttamente, ma giocavo ad Halo 2 a casa di Jacopo sostanzialmente, quindi ho fatto la campagna in cooperativa a casa di Jacopo e un po' ho giocato in multiplayer personalizzate con lui e chi capitava lì a non studiare. Per poi tornare su Xbox alla veneranda età di in secondo superiore, se non sbaglio, terzo superiore, su 360, forse in terzo. Non ricordo se in secondo o in terzo, comunque a 15-16 anni più o meno, e da lì in realtà la mia storia su Halo è davvero iniziata, diciamo, quindi con Halo 3, Halo 3 DST e Halo Reach, che sono i titoli che ho giocato di più in assoluto. Effettivamente poi da lì mi sono innamorato della saga, ho continuato a giocare, specialmente multiplayer, e in realtà poi la mia storia su Halo si è reinterrotta un'altra volta, perché non ho preso subito l'Xbox One, quindi non potevo giocare ad Halo 4. No, Halo 4 è su 360. Era ancora su 360 e non l'ho preso perché non ricordo, vabbè, comunque non l'ho preso. E per poi tornare un po' su Halo 5, che però non mi ha mai, diciamo, catturato appieno, quindi in realtà diciamo che i giochi principalmente i capitoli della saga a cui ho giocato in maniera abbastanza corposa, diciamo che sono il primo, quindi Halo Combat Evolved, Halo 3, Halo 3 DST ed Halo Reach. Gli altri, Halo 2, diciamo, comparse, Halo 4 praticamente zero e Halo 5. In realtà poi ho giocato molto molto anche ad Halo Wars, al primo capitolo strategico Halo Wars, un po' meno ad Halo Wars 2, che però comunque sono due capitoli che mi hanno fatto letteralmente impazzire, mi sono piaciuti veramente, veramente tantissimo. E niente, aspetto con ansia Halo Infinite, vediamo un po' cosa succederà. Esatto, poi parleremo del futuro di Halo in coda all'episodio. Ok, detto questo, sì. Ora sappiamo chi siamo, insomma. Non posso parlare per il nostro ospite Luca, però vabbè, una storia da quello che ricordo un po' simile a quella di Edo, quindi anche lì 360, Halo 3, Halo Reach, e un bel po' di lore. È più una presenza che, come dire, sta nei nostri cuori, ma non nelle vostre. È una presenza, Luca, nei nostri cuori, sì, esatto. No, vabbè, cioè, tranquillo, se Luca, se vuoi intervenire, se puoi, se no, tranquillo. Continuiamo quindi con, appunto, in risposta a Marco, spieghiamo bene quello che ha detto, cioè confermiamo un po' le cose che ha detto. Quindi, che cos'è Halo? Abbiamo detto velocemente mentre ci presentavamo le nostre esperienze. In pratica, Halo è una saga, come dicevamo prima, di tanti capitoli. Questa storia, come diceva Marco, di Master Chief principalmente, che ha diverse, come posso dire, espansioni. È partito come un gioco che doveva essere lì e buono, cioè è stato pensato sì con tanti dettagli, con tanta lore, c'è tanto pensiero dietro. Un gioco che doveva essere inizialmente per Mac, poi è uscito pure per Mac, come ci ricordava Edoardo, poi è stato comprato dalla Microsoft per uscire su Xbox. è diventato un po' la killer app, no? Di Xbox, tant'è che ha venduto un po' l'Xbox come console e è diventato famoso il termine Halo Killer, no? Cioè, quando uscivano tutti i giochi in prima persona, ogni gioco in prima persona doveva rapportarsi ad Halo, specialmente ad Halo 2, perché era questa forza inarrestabile. Un'altra cosa che ha cambiato è la percezione dei giochi in prima persona su console, perché li ha resi accessibili, ha creato un po' lo schema di controllo su console. Però vabbè, come quello che diceva prima Marco, cioè il discorso è che c'è questo Master Chief, che è il personaggio principale, che è un essere umano potenziato, tipo un super soldato, con un'armatura che lo potenzia ancora di più, un gigante tra gli uomini, che ha questo assistente, tra virgolette, vocale, che si chiama Cortana, questa IA Cortana, che nel primo gioco viene incaricato di proteggerla e di portarla in sicurezza, perché contiene informazioni che non devono cadere in mano agli alieni. In realtà è una IA più speciale di questo, ma non possiamo dire altro. E finisce su questo Halo nel primo capitolo. Cioè, nel primo capitolo tu vedi per la prima volta questa struttura che dà il nome al gioco, che è una specie di anello, come diceva Marco, terraformato, che non si sa bene che cosa sia, perché esista, chi l'ha creato, cioè è tutto un po' un mistero nel primo gioco cosa sta succedendo. Ci sono questi Covenant che sono in guerra con gli umani da tanto tempo, che sono queste, come diceva Marco, cazzo, ho beccato tutto. Tutte queste razze degli alieni messe insieme, e niente, spari. Non ho niente da dire, Marco, cioè, becco tutto, nel senso, è questo. Ah, quindi adesso sarò come? Hai detto qualcosa o sto laggando io forse? Non ho capito neanche io. Ok, non stiamo laggando, okay, lui, stava laggando lui. Rieccolo. Ci proviamo. Mi risentite meglio adesso? È un pochino, però è ancora molto a scatti. Buona sapere. Vedo se riesco a risolvere. No, okay. Avevo provato tipo a fare una domanda, ma temo non mi abbiate sentito. No. Ok, dicevo appunto, e poi vi lascio parlare un po' mentre io vi ascolto e cerco di risolvere. Quindi questo Halo che dà il nome alla saga è un tema che comunque non viene affrontato nel primo capitolo. Allora, viene affrontato e sembra risolto, ma in realtà ha molti strati. Nel senso che nel primo capitolo si scopre, vabbè, faccio uno spoiler che ormai lo sanno pure i cani, se... Cioè, nel senso, è una cosa risaputa, insomma, nella community, che Halo in realtà è un'arma. Cioè, nel primo capitolo viene impostato questo discorso che Halo è una super arma che gli alieni vogliono usare contro gli umani. In realtà non è vero. Ci sono molti più, diciamo, layer, ci sono molti più strati di storia, di lore, di funzionamento, di motivazione, cioè del perché esiste, di chi l'ha costruito. Ci sono tante, insomma, cose che nel primo capitolo non vengono affrontate. E anche come questo, cioè, in realtà la funzione di questo anello, insomma, viene un po', diciamo, traviata dalle varie razze, insomma, anche dai Covenant stessi, insomma. Quindi effettivamente sì, è vero, ci sono anche più livelli di comprensione dell'anello stesso, alla fine. Esatto. Cioè, esatto, come dici tu, ogni razza ha un po' la sua interpretazione di questo anello. Quindi gli umani, che sono molto, appunto, militari come mentalità, questi umani che arrivano lì, vedono un po' tutto con quella lente, quindi pensano che sia un'arma. I Covenant, che sono un po' più rappresentati come molto devoti, religiosi, superstiziosi, lo vedono come una reliquia, una cosa sacra, e appunto il suo scopo anche è interpretato in maniera molto diversa. Ecco, vedi, di questa cosa non avevo assolutamente idea. Sai che ero convinto che gli anelli, gli Halo, li avessero costruiti gli umani, chissà perché. Ah! Per una mia mancanza. Vabbè, comunque, la cosa che viene fatta poi negli altri capitoli successivi è un po' approfondire molti temi, viene un po' più... vengono gettate delle basi di lore sia nei capitoli successivi del gioco, sia nei vari manuali, libri, pubblicità, serie TV, cioè ci sono veramente tantissime cose che hanno esteso, che hanno messo giù delle tematiche e completato un po' delle cose della lore del gioco. E il bello è che piano piano cominci a capire di più su tutto, cioè su questi anelli, su questa civiltà che li ha costruiti, sui Covenant, e questo. Ovviamente l'altra parte che dicevi è di multiplayer. Il multiplayer è una cosa molto importante, cioè uno dei motivi più importanti forse per cui Halo ha spopolato, perché non so bene come descriverlo. È un po' una versione quasi modernizzata, tra virgolette, dell'arena shooter, no? Marco è morto di nuovo. Cioè tu hai questa velocità, tra virgolette, hai questa velocità più alta, questo ritmo di gioco un po' più alto rispetto magari ad un gioco vecchio stampo, però comunque è tutto molto rallentato, cioè il tempo per uccidere una persona è più alto rispetto a Call of Duty, perché non sei legato al discorso del realismo, e hai respawn un po' più alti, è tutto un po' più metodico nella versione, diciamo, standard del gioco, e questo secondo me porta ad avere un po' più di skill richiesta, tra virgolette, nel posizionamento, nel lavoro di squadra, piuttosto che nella skill meccanica, che come può avere un giocatore di Counter-Strike, no? Ti becca in testa da 40 km. Non so, sì, questa è un po' la mia impressione, non so, Iro, se tu volevi... Sì, penso anche, boh, diciamo, quasi al precursore degli arena, come può essere Quake, per esempio. Tu hai citato giustamente Counter-Strike. Effettivamente la meccanica dello scudo impatta tantissimo sia a livello di campagna quanto più a livello di multiplayer, secondo me. Cioè, è un concetto completamente diverso. Cioè, tu puoi... cioè, diciamo che il controllo della mappa, il controllo del posizionamento degli alleati è davvero fondamentale. Cioè, non puoi, diciamo, se vuoi giocare in maniera competitiva è davvero fondamentale. Cioè, un giocatore da solo non può vincere una partita. Esatto. Cioè, possiamo metterla così, insomma, il posizionamento, cioè il lavoro di squadra, nel 90% dei casi su Halo vince, cioè non puoi prescindere, insomma. Questa cosa che hai detto è interessante, del fatto dello scudo, perché non ne abbiamo parlato fino adesso. Cioè, in Halo è stato uno dei primi giochi che ha introdotto la salute che si rigenera. Cioè, la salute principale del personaggio a volte c'è, a volte no, quindi a volte hai una barra della salute che puoi curare con i medikit oppure no. Però c'è una parte, c'è una componente di scudo in ogni capitolo dove hai appunto una specie di porzione della salute che si può rigenerare se stai al riparo per un po' di tempo, che prima non c'era quando è uscito, non era una cosa molto diffusa. E sì, cioè effettivamente dà un sacco di ritmo al gioco, è un sacco diverso, perché proprio ci metti tempo con la maggior parte delle armi a uccidere qualcuno. E quindi trovare armi che possono ucciderti con un colpo solo diventa importantissimo, anche perché le armi sono nella mappa, no? Come appunto dicevi in Quake o in Unreal Champions. Sì, esatto. Cioè non è come... vabbè, io cito Call of Duty perché è il primo esempio, diciamo, famoso che mi viene in mente, ma non ci sono requisizioni, cioè, o meglio, poi le hanno messe negli ultimi capitoli della saga. Qualcuno le ha accumulate. Esatto, qualcuno le ha accumulate. Però, diciamo, nei giochi originali non c'erano requisizioni da poter spendere all'interno della partita multiplayer. Cioè, le armi sono quelle, uguali per tutti, e tutti devono, diciamo, faticare per raccogliere le power weapon dalla mappa, per ottenere non so, i potenziamenti armatura. Quindi in realtà è tutto, è quasi uno strategico, diciamo, un shooter strategico in fin dei conti, perché il controllo della mappa è davvero fondamentale. Esatto, sì. E questa cosa secondo me vale anche in single player, perché tipo stavo, mi ricordavo, cioè, rigiocando un po' Halo 1 già, è un sacco importante, cioè, gestire la mappa, gestire le linee di fuoco tra te e i nemici, gestire, cioè, esattamente dove sei, perché appunto stavamo rigiocando un po' la campagna di Halo 1 leggendaria, ed è veramente, cioè, è critico sapere quali armi fanno quali danni, sapere un minimo dove può essere al riparo oppure no, usare bene le granate, poi nei giochi successivi appunto anche gli equipaggiamenti, cioè è un gioco di scelte infinite. Devi fare, come piace dire a te, no? Devi fare scelte interessanti. L'ho già detto 50 miliardi di volte questa cosa, che avere solamente due armi al contrario di tipo Half-Life 2 dove ne hai 40 cambia un sacco il ritmo di gioco, cioè sì. Devi d'accordo. Scegliere, scusa, hai detto tu? No, dicevo, sono pienamente d'accordo, anche esatto. Perché, cioè, poi magari non è proprio lampante diciamo come si inizia a giocare, ma effettivamente il danno che fanno determinate armi e la resistenza che hanno determinati personaggi a quel tipo di danno in campagna ti svolta veramente la vita, cioè specialmente giocando a difficoltà leggendaria, scegliere l'arma giusta al momento giusto per il nemico giusto ti risparmia molte bestemmie. Naturalmente. La quantità non indifferente. Sì, poi c'è questa cosa particolare che non mi ricordo dove ho letto e riguardo cosa, dove praticamente dicevano se tu hai 40 pozioni di cura. Jump, si sta ascoltando. Poi tipo 200 di un oggetto, no? Stai accumulando questi oggetti, non li usi. Cioè è paradossale, perché meno ne hai di un oggetto, meno sei portato ad usarlo. Non so se ha senso questa cosa, però cioè più hai delle risorse che sono limitate, cioè forse non è tutta la storia, cioè hai delle risorse limitate in Halo, questo è vero, hai solo due armi, hai tipo solo quattro di ogni granata, hai munizioni limitate e tutto, però questo ti porta ad usarle di più, perché è come se il gioco ti stesse anche facendo una promessa che ne troverai altre, quindi quelle che troverai saranno sprecate, cioè quelle che trovi durante il cammino, se hai già l'inventario pieno, non le potrai usare. Se tu non usi mai un'arma... Vero. Il gioco ti incoraggia a usarle, anche se ne hai poche, paradossalmente, e poi ti incoraggia a cambiare il tuo stile di gioco, perché le munizioni finiscono, trovi le armi per terra e devi arrangiarti con quelle che trovi. Quindi cioè è un sacco appunto interessante guardare il gioco sotto questo punto di vista, perché se non stai giocando vedi un sacco meglio come tipo l'altro giorno stavo guardando una registrazione di Edo che giocava, e era interessante vedere tipo come lui tipo sceglieva di tirare la granata in un certo punto in mezzo a un gruppo di nemici, piuttosto un altro, poi si spostava dietro un albero, poi sparava su un punto debole di un avversario con la pistola, cioè sembra stupido, ma mi ricorda un po' Zelda questa cosa, cioè mi ricorda un po', cioè l'idea di avere questi punti deboli dei nemici che sai, ed è come se stessi giocando ad un gioco quasi strategico, dove tu sai, che ne so, che un nemico è debole al fuoco, però questi ragionamenti li fai in tempo reale, cioè sono magari più semplici, no? Perché non devi stare a fare cose complicate come può essere in Final Fantasy X, no? Devi fare delle magie con una persona, scambiare, cioè è tutto molto più immediato, però comunque sono scelte che devi fare, devi riconoscere un nemico. E trattarlo bene. Assolutamente sì, ma sì, anche perché cioè due esempi che forse sono quelli più lampanti nel mondo di Halo, insomma, uccidere Jagal e cacciatori in maniera convenzionale è veramente un massacro, nel senso sai che ci sono dei punti deboli e il gioco ti, non dico costringe, ma quasi a sfruttarli, perché altrimenti ti dice ti sto facendo vivere un inferno, diciamo Quindi sei davvero, non sei costretto, ma sei molto invogliato, molto incoraggiato a sfruttare determinate meccaniche del gioco che, come dicevi tu, effettivamente sono quasi strane per uno shooter, cioè non è banale. E sei portato a fare determinate scelte in tempo relativamente veloce, cioè insomma in campagna ci sono dei punti in cui o sei veloce, cioè non hai possibilità di scelta. Esatto, ma non veloce di reazione, proprio veloce di pensiero, di cosa devi fare, no? Cioè, sì, sì, esatto. Sei bravissimo a sparare, però se sai, tipo, ecco, ora Edoardo ha detto i Jackal sono dei nemici che hanno questo scudo davanti, tipo Priti, no? Cioè hanno questo scudo circolare che li copre quasi interamente, però hanno una parte esposta che è la mano che regge lo scudo. Quindi se tu sai che puoi sparare lì e loro... diciamo faranno un flinch, no? Cioè faranno una mossa perché si scoprono, poi puoi sparargli in faccia e ucciderli istantaneamente. Però non è l'unico modo per ucciderli. Se tu tiri una granata in mezzo a un gruppo di Jackal, qualcuno rimarrà incastrato e esploderà. Se gli spari dietro, ovviamente è scoperto. Se gli spari con un'arma al plasma, il plasma fa più danni agli scudi e quindi gli verrà giù lo scudo, si spegnerà. Cioè, sono tantissimi modi di approcciarli e dipendono tutti da che arma hai, come sono posizionati loro, come sei posizionato tu. Secondo me è il bello di avere dei nemici che non sono solamente umanoidi. Lo so che sembra un insulto a Dark Souls 3, dove tutti i nemici sono umanoidi. Il bello di avere nemici che non sono prevedibili, che non sai... cioè, o meglio, che hanno delle debolezze e dei punti di forza sempre diversi, delle silhouette diverse, tipo tu da lontano capisci che quello è un cacciatore, che è una cosa enorme, con l'armatura, piuttosto che un Jackal, perché tipo vedi lo scudo luminoso. Cioè sono tantissimi elementi, sia di design estetico che di design di gameplay, che sono non diffusissimi negli sparatutto, insomma. Insomma, mi stai dicendo che quando i designer sanno sfruttare la flessibilità del gameplay, nel senso del poter appunto creare un sistema con cui è possibile giocare, ovvero lasciare al giocatore una scelta più complessa di quella che potrebbe essere semplicemente un singolo modo di affrontare un nemico, vengono fuori giochi interessanti. Lo so, sembra strano dirsi, vero? Case di produzione, però a quanto pare sembra funzionare la tecnica. Che ironia della sorte. E quindi questo, cioè, per me si può riassumere in questo, cioè c'è tanta varietà nel cambiare dei dettagli, cioè puoi introdurre davvero delle situazioni molto diverse cambiando pochi elementi, tipo quanti nemici ci sono, dove sono, dove li incontri, eccetera, e questa parte è molto importante sicuramente, cioè la parte di gameplay, ma per me personalmente, e forse sono una minoranza, diciamo, all'interno della comunità, cioè, nel senso, sì, ci sono tantissime persone che amano il gameplay di Halo, il multiplayer di Halo, eccetera, ci sono forse posso dire, diciamo, un 2-3% in meno almeno di persone che amano la lore di Halo. Cioè, la lore, diciamo, tra la lore e il gameplay è quello più popolare, mettiamola così, cioè che più persone... Mm-hmm. La lore, secondo me, si merita pure tanto amore. Quindi tu sei uno di quelli che, come dire, sei un difensore della lore, sei uno di quelli che dice no. Andiamoci piano, questa roba è fatta bene? Esatto, sono un Sabaku no Halo. Beh, ormai anche Sabaku, un po' un Sabaku no Halo a questo punto. È vero. Questo va detto. No, cioè sì, io mi sono sempre un po' affascinato perché ho sempre percepito che ci fosse qualcosa dietro di più di quello che il gioco lascia intendere, perché il gioco è molto stitico con la lore, cioè... Non caga fuori, mi piace. È come Dark Souls, comunque c'è una trama lineare, è di facile comprensione quello che sto facendo di solito, a parte qualche eccezione, però la trama nel senso, la lore nel senso proprio l'universo, proprio le cause di alcune situazioni, sono dei mici che ogni tanto fanno super cazzole che solo nei libri poi capisci cosa intendevano, terminali, cose strane che succedono, cioè è bello che io adesso tipo ho finito a leggere da poco un libro che si chiama Cryptum, che è prima di una trilogia, e finalmente ho capito, dopo tipo appunto 20 anni che seguo questa saga, una cosa degli Halo e della storia degli umani e di questi primogeniti che sono insomma la razza che ha costruito gli Halo. È veramente bello che, a parte che ci sono tantissimi libri e sono tutti, da quello che so, sono tutti canon, o quasi, sono tutti ancora, non hanno mai fatto retcon, cose strane. Ed è bello perché a prima vista può sembrare un gioco militarista, ha un po' la fama di essere un gioco molto bro dude, no? Cioè molto Mountain Dew e Doritos. C'è anche quell'immagine, è vero, sì. Cioè, io aspettavo che lo dicessi tu prima, cioè, ah sì, allora. Guardo il lato positivo, non so. Sì, è vero, cioè, bisogna, devo ammettere che anch'io come persona completamente esterna alla serie, che non ci ha mai avuto veramente a che fare, non nego che una di quelle immagini di pop culture che mi è arrivata sia quella proprio del un po' dello sfigato con la Mountain Dew e i Doritos che gioca 24 ore su 24 ad Halo. Per cui c'è anche quella realtà, assolutamente. La cosa per noi era gli altri così. Per noi erano maritozzi, pane e Nutella, crostate alla Nutella, però sì, senza quello. È vero. Ma perché noi siamo italiani, quindi ci trattiamo meglio. Esatto, noi siamo italiani, quindi. No, però appunto, secondo me, cioè, immagine per carità, c'è un motivo se c'è quel pregiudizio. Il motivo principalmente è secondo me, il multiplayer online e Xbox Live in generale. Tipo uno che gli arriva un messaggio su Xbox Live dopo che ha perso la partita su Halo, no scusa, dopo che ha vinto la partita su Halo da uno dei perdenti, spero che il tuo cellulare si carichi solo con un angolo specifico del caricatore, e messaggi del genere. Sì, mi sembra già un po' troppo di classe. Insulti alle madri, cioè cose così. Però secondo me la lore di Halo, cioè quello che è un po', rimane come un po' sottinteso e non detto nei giochi principali, è molto molto più come posso dire, ha molta più nuance, no? Cioè è molto più sottile, ha molti temi interessanti e molte storie controverse. Tipo l'esempio che viene in mente, vabbè, per primo e che tutti sanno, cioè l'origin story degli Spartan, che sono questi soldati come Master Chief, no? Loro in realtà sono stati rapiti da piccoli, sostituiti da cloni e praticamente torturati, cioè hanno fatto esperimenti su di loro per farli diventare così. Quindi cioè, il motivo per cui Master Chief è un super soldato è perché loro da piccolo l'hanno iniettato di roba ed è stato uno dei pochi che è sopravvissuto a questi esperimenti. Sì, questa l'avevo sentito un po' anch'io, sempre da esterno, che c'erano stati, c'era la questione di esperimenti illegali su bambini, non illegali, immorali più che illegali, era questo il punto, su bambini, per creare questi super soldati, no? Esatto, quindi già così partiamo male, nel senso... ok, però chi ben poi... comincia... Beh... però poi è sempre peggio, nel senso che scopri, c'è un bellissimo... un cortometraggio fatto da una casa di animazione giapponese nella raccolta Halo Legends, che mi pare sia su Netflix, non lo so, dove si vede cosa succede a questi cloni, ovvero che muoiono di morte terribile, cioè hanno delle malattie che derivano dal processo di clonazione, quindi queste famiglie si trovano con un figlio o una figlia morti di una malattia terribile degenerativa, non sapendo che il loro figlio è stato rapito, cioè è tutto questo, cioè all'inizio ti sembra giustificato perché dici ma vabbè, però sull'altro piatto della bilancia c'è la distruzione dell'umanità, forse diciamo, ci può stare che ne perdiamo qualcuno nel processo. Però poi è interessante vedere la mentalità della dottoressa Halsey, che è quella che ha fatto questo progetto, insomma, di modifiche dei genetiche, e quello che è successo emotivamente a questi bambini, cioè che sono praticamente solo macchine da guerra, non hanno stimoli sessuali, non hanno più... Cioè, sono veramente, come posso dire, traumatizzati a vita. Non solamente a livello tu dici, c'è sempre quella bellissima domanda da farsi, che è quella, pur di salvare la nostra, l'umanità, quanta umanità siamo disposti a perdere? Esatto, che è il tema di fondo di tutta quanta la saga, non solo per gli umani questa cosa vale. Ed è bellissimo anche vedere come, cioè, scoprire che all'inizio erano dei soldati non creati per la lotta contro gli alieni, ma per sopprimere delle ribellioni. Perché il bello è che non... Ecco, questa non la sapevo invece. Interessante. All'inizio non viene nascosto il fatto che la morale sia semplice. Gli umani sono buoni, i Covenant sono cattivi. Però piano piano, cioè, più passa il tempo, più leggi cose, più scopri che c'erano questi, appunto, secessionisti, chiamiamoli, cioè... Rivoluzionari, insomma, persone che nelle colonie, questi coloni che vivono nelle colonie esterne, volevano avere più indipendenza, volevano avere... È la solita storia, no? Cioè, noi siamo abituati a vedere loro, a vedere questi rivoluzionari come buoni, perché di solito, no, come la storia americana, c'è un motivo se si stanno ribellando, no? Perché magari sono sfruttati, pagano le tasse senza avere una rappresentazione nel governo centrale. Un po' i ribelli di Star Wars alla fine. Sì, esatto. Quindi noi in realtà stiamo guardando un universo in cui l'impero di Star Wars è stato attaccato da una forza esterna e l'impero sono i buoni. Cioè, dobbiamo accettare che non è... figa come effettivamente come variante, no, della solita storia, in effetti. Ovviamente è più complicato di così, cioè non è così bianco e nero, però ci sono tantissime storie che partono da questo, quindi partono da questa zona un po' grigia e hanno potenzialità enormi. E questo ci aggiunge il fatto che hai tutta la storia dei Covenant, che pure è complicata e interessantissima perché sono miliardi di razze diverse con culture diverse, e la storia dei primogeniti e la storia dei precursori, che sono quelli ancora prima dei primogeniti. Quindi hai tantissima tantissima lore da sviluppare, da zie, cugini, zii. E ci sono tantissime storie, tipo, no, vabbè, cioè ogni cosa che scopri ti ribalta delle concezioni che avevi. Tipo, scopri, cioè, tipo, tu durante il gioco pensi che i Grunt, che sono questa razza ridicola, sono un po' la spalla comica di Halo, cioè sono un po' i nemici più buffi e più goffi con la vocina stridula, e pensi che siano dei, cioè, quelli più presi per il culo, no? Cioè sono una razza più abusata dei Covenant, no? Perché te li tirano addosso come, cioè, come carne da macello. Letteralmente. Li tireranno proprio letteralmente in faccia. Esatto. Però poi scopri che nella lore loro in realtà sono considerati la razza più coraggiosa. Effettivamente poi ha senso. Cioè, tu essere un Grunt alto 50 centimetri e andare contro un uomo di 2,30 metri che ha appena distrutto 40 dei tuoi migliori amici. Cioè, ma che figa sta cosa, questo non lo sapevo. Ma questo perché c'è un evento nella lore dei Grunt dove c'è stata questa ribellione dei Grunt, dove hanno fatto una dimostrazione di grande coraggio, di grande, insomma, forza. E quindi, cioè, è tutto un continuo scoprire storie, scoprire elementi di lore stupendi. E in mezzo ci metto anche che alcuni giochi hanno anche una storia proprio, cioè, pare che sto insultando i giochi perché sto parlando solo di roba estesa, però in alcuni giochi anche la trama è effettivamente bella, cioè non è a livello di un film d'arte, d'autore, così, è sempre molto, cioè, dritta, andiamo dritti e quello è il nemico, ammazziamolo. Però ci sono tantissimi dettagli, tantissime cose in Halo 2, la trama l'è vista da due punti di vista, quindi hai la versione da lato degli umani e la versione da lato dei Covenant, quindi hai l'Arbiter che è un personaggio che fa parte dei Covenant e vedi un po' il suo punto di vista della storia. In Halo Wars hai dei filmati stupendi, anche nel 2, fatti benissimo, di questa storia. Quindi cioè, anche i giochi stessi hanno gran parte del... Poi anche il fatto di vedere la storia da due diciamo, parti diverse, sia appunto dagli occhi di Master Chief, sia da parte degli occhi dell'Arbiter, anche quello penso che... Cioè, non so quante volte sia stata utilizzata come tecnica prima di Halo 2, sinceramente. Cioè, non credo che sia stato... Non lo so, e poi sono molto più ignorante in materia rispetto a voi. Magari di sicuro non nel mondo dei videogiochi, probabilmente. Sì, esatto, magari non nel mondo... Sì, intendo sempre nel mondo dei videogiochi. Certo. No, esatto, cioè, magari potevi dire, che ne so, che su StarCraft ho fatto la campagna con i Zerg, non so, cioè ho fatto... Però in Halo 2 era molto più importante perché fino ad Halo 2 pensavi, gli alieni sono una metafora per i medio orientali, no? Sono Al-Qaeda, no? Cioè sono fanatici religiosi. Visto anche il periodo, forse. Esatto, no, ma per forza, cioè, è uscito 2001, quindi pieno fobia. Però giocando Halo 2 ti rendi conto che anche in Halo 2, cioè anche in Halo non è così facile, cioè la metafora finisce lì, cioè sì. Più complessi come problematiche, come psicologia, come certo. Gerarchica, cioè c'è un mondo dietro. Già solamente parlare degli Elite, che sono una razza di... Esatto, la razza più figa, diciamo, dai, più graficamente, più accattivante, secondo me, dai. Sì, quelli che sono considerati un po' pari dei Spartan, nella razza. Esatto. Questi Elite, che sono appunto la razza dell'Arbiter, già loro sono infiniti come lore, cioè come roba. Quindi questo un po' è quello che mi viene in mente come gameplay, come lore. Non so se avete qualcosa di altro che ho dimenticato, qualche domanda a Marco, qualcosa che ho dimenticato, diciamo come overview del passato di Halo prima di passare al presente. Sto pensando, perché di nuovo non posso andare troppo nel dettaglio, perché sennò si finisce per spoilerare troppo. No, cioè, no, sono cose che uno poi dovrebbe magari prendersi il tempo di viversele da solo, magari giocando ai giochi della saga o seguendo la serie che prima o poi verrà pubblicata sul canale YouTube di X, tipo X. Poi ti diciamo noi se è una cosa... Ok. Che è meglio non rispondere. Quindi tu mi avevi detto che il primo gioco di Halo era stato pensato un po' come autocontenuto, no? All'inizio. Tu dici ci sono momenti nella storia in cui magari ci siano state delle forzature, ci sono state dei... Come dire, hanno detto, cazzo, ma adesso non basta più un gioco, dobbiamo fare altra roba, e come la mettiamo ora? Pensi ci siano momenti di questo tipo o in generale la saga è abbastanza coerente? Qui dipende a chi chiedi. Beh, io chiedo a te in questo caso. Secondo me come forzatura di trama... Diciamo i due capitoli che forzano un po' di più la trama sono allo 4 e allo 5. E ripensandoci un pochino, quello che un po' la forza un pochino di più forse è allo 5. Il problema è che sono entrambi dei capitoli che se li leggi sulla carta, cioè guardando le idee che hanno sulla carta non diresti che sono idee campate per aria, anzi Halo 4 ha un sacco di roba che viene introdotta in Halo 3, in un sacco di libri. Però viene seguita un po' male, secondo me, proprio a livello di trama nel gioco finale. Quindi direi forse quei due. Però, boh, sì, non ho mai sentito in fondo l'idea, cioè il sentimento del ah no, dovevano fermarsi da 3, o ah no, dovevano fermarsi da Rich. Cioè, okay, questa è una bella cosa che non tutte le saghe di videogiochi possono vantare di avere, in effetti. Sì, cioè, anche questi due capitoli, il 4 e il 5, comunque hanno delle cose che un po' li salvano. E Halo Reach, per esempio, ha una trama che tutti, cioè nel senso, tutti quanti quelli che hanno seguito un po' la trama di Halo, che conoscono un po' la lore, sanno come finisce Halo Reach. Quando inizi sai già come andrà a finire. Però è comunque fatto benissimo. Cioè è comunque, è il Rogue One prima di Rogue One. Cioè prima che uscisse Rogue One c'era Halo Reach, diciamo. Esatto, diciamo che nonostante tu sappia già, appunto come dicevi tu Jacopo, se hai già giocato a qualche Halo, conosci un minimo la lore eccetera, sai come andrà a finire Reach, insomma. Però devo dire che sapere non il finale eccolo qui, eccolo qui, ha fatto l'entrata scenica. Luca arriva, non arriva in ritardo, lui arriva quando deve arrivare, giusto? Esatto, come un, esatto, come Gandalf, come intende farlo, o quando finisce di fare casino lavatrice. Ecco qui Luca il bianco, esatto, all'alba del terzo giorno. No, dicevo solamente che poi lascio la parola al buon Luca, direi che appunto nonostante tu sappia già come va a finire Reach, è in ogni caso credo una delle campagne più interessanti, più coinvolgenti della saga. E sono d'accordo con te, Jacopo, nel citare ODST, perché ah, sì, pur essendo uno spin-off della saga principale, è comunque molto molto divertente e anzi molto molto innovativo come tipo di gioco, secondo me. Anche rispetto proprio alla saga di Halo, insomma, al gameplay nudo e crudo di Halo. Grazie che me l'hai ricordato, sì. Cioè, ODST e Reach sono due capitoli che sono meno importanti come trama, perché non stanno portando avanti nulla in realtà. Oddio, qualcosina sì, però dei dettagli importanti, ma a livello di trama più o meno si sapevano già. Però per me, paradossalmente, sono quelli meno forzati. Cioè, sembrano quelli più interessanti come trama, più coinvolgenti, forse, a parte lo 3. Quindi... Ma forse anche perché, diciamo, è da prendere un po' con le pinze quello che dico, ma avevano meno da perdere. Cioè, nel senso, non... erano quasi un'aggiunta, diciamo, fra virgolette, non richiesta. Cioè, non dovevano portare avanti nessun tema principale, dovevano solamente, diciamo, essere messi a corredo di una storia già bella che avviata. Eppure, effettivamente, poi il risultato, secondo me, è notevole, insomma. Sì, invece magari appunto lo 415 hanno un po' il peso, hanno un po' le aspettative di dover portare avanti cose diverse per persone diverse, cioè non lo so. Poi altra feature, diciamo, un po' nostalgica che all'epoca c'era e che purtroppo non c'è più, lo split screen, ma vabbè, no. Quello è diciamo è un po' così per molti giochi, insomma, quindi ci si può lamentare fino a un certo punto, purtroppo. Però avevano promesso che con Infinite sarebbe tornato, quindi... Cioè... Io lo aspetto al varco, eh. Io lo dico, li aspetto al varco. Non voglio sentire niente. E noi gli crediamo. Come? Chi crediamo? Non lo so. Tu, Luca, hai qualcosa da aggiungere sulla prima parte, sì, della saga di Halo? Vabbè, di qualcosa su quest'ultima parte che avete detto, così non vado fuori tema. Secondo me il fatto della forzatura, adesso non lo posso dire con certezza scientifica, però mi sembra che quello che sia successo è questo, che sono passati 15 anni da quando è nato, e all'inizio era effettivamente più semplice di quello che magari uno si può inventare, poi è stato, cioè, il tentativo di renderlo un po' più non anni 90, ma adeguato ai tempi, è stato fatto un po' in questa seconda trilogia dove si parla di forzature. A me sembra la forzatura sia normale che sia stata, perché è come se prendessi le prime due stagioni di Friends e ci attaccassi le ultime due di Community. Facessi un'unica serie TV, capito? Wow, che... questo è un bellissimo esercizio mentale. Perché effettivamente se, a me sembra, non so cosa ne pensano Edo e Jacopo, però che i personaggi siano molto da anni 90, NCIS, capito? I personaggi della originale, pure Master Chief è quello tosto, sì, che non parla, il sergente Johnson è il personaggio che fa le battute, side, come si chiama? Insomma, così. Io so cosa piace alle donne. Esatto. Quindi... sì, sì, chiaramente. E poi, cioè, nel senso, è stato cercato, secondo me, cioè, come è stato espanso l'universo è bello e interessante, solo che ovviamente poi provi a... Se tu vedi negli altri giochi ci sono più dinamiche, magari vengono introdotti personaggi che sono, provano a essere un po' più grigi rispetto alle prime saghe, e quindi chiaramente di botto sembra che la saga subisca un trauma, perché lo subisce, secondo me. Sì, in quel senso sì. Cioè, in quel senso hai ragione che... c'è stata una forzatura dopo Halo 1, però è una forzatura positiva, uno stravolgimento positivo, cioè non sembra che il salto dall'1 al 2 si vede, ma non è oddio, dobbiamo farci un altro gioco, che cazzo facciamo? Cioè sono un sacco di cose che già erano nell'aria, non so come dirlo, erano... Mm. Sì, sì, io parlavo forse un po' più di quello generazionale, quello già, sì, è vero, che vale un po' anche tra 1 e 2, parlavo più tra quello prima e seconda trilogia. Ah, tu dici tra 3 e 4, sì, sì, sì. Personaggi più grigi, secondo me, c'erano anche nello 3DST, o almeno ci hanno provato un po', però hai ragione, cioè sicuramente in Halo 4 hanno provato un po' di più a fare questo salto di trama. Tra l'altro, cioè, così nell'esatto momento in cui stiamo per cambiare un po' argomento e parlare del presente, arriva il rappresentante della presente della saga di Halo, che è il signor Shinji Andrea. Ah, stanno arrivando tutti, meno male. Cioè, poi, al momento esatto in cui devono arrivare, tutti Gandalf. Anche che... Praticamente io adesso ce l'ho ancora una domanda, Jacopo, che ne approfitto mentre aspettiamo l'arrivo di Andrea per farla, perché questo è io che non ho ben capito, ma quindi adesso abbiamo parlato di tutta la storia, abbiamo fatto di quello che funzionava, di quello che ha rivoluzionato, di Halo, di quello che ha fatto per il genere degli sparatutto, ma il rant poi inizia, è già questo il rant e stiamo parlando solo bene di Halo, c'è qualcosa poi di male da denunciare un po'. Nel momento in cui cominciamo a insultare Halo, okay. Non c'è chiaramente nulla di male. È chiarissimo. No, beh, Dante era un po' questo, cioè volevo un po' fare un episodio per togliermi Halo. Ah, quindi proprio diciamo la versione opposta del mio sui Pokémon, tu hai più che altro amore da dimostrare in questo caso per la saga, piuttosto che le mie lamentele. Ci sta assolutamente, è un rant anche quello, è uno dei rant più piacevoli in assoluto anche. No, in realtà... Quindi... No, c'è il rant da fare in realtà adesso. Ah, ok. Adesso che entra il buon Andrea ne parliamo meglio, però il rant è più appunto per lo stato presente delle cose. Sottinteso con Halo 4 e Halo 5 la cosa è andata un po' a calare, cioè la popolarità di Halo e la qualità un po' di Halo è andata un po' a scendere. Già un po' giocando ad Halo 4 ho avuto questo sentimento all'epoca di giocare qualcosa che aveva il sapore, l'odore di Halo, ma non era Halo, no? Un po' come quando scopri che quando mangi qualcosa che ha il sapore di fragole, in realtà è una sostanza fatta apposta per dare il sapore di fragole, non ci sono fragole lì dentro. E Halo 4 mi ha dato un po' questa impressione, perché hanno cambiato tante cose, hanno cambiato un po', come diceva Luca, la trama. Ah, è arrivato il signor Andrea. Attenzione. Hanno cambiato un po' la trama, la struttura. Buonasera. L'intrusione. Di nulla, sei stato preciso, Andrea. Stiamo per parlare dello stato attuale di Halo. E poi, vabbè, a parte il discorso di trama, così, di struttura delle missioni, di stile, cioè di design grafico, tutte cose che ci stanno benissimo, cioè, come diceva Luca, per portare avanti la saga e un po' svecchiarla. Però non sono riusciti appieno, secondo me, a catturare di nuovo l'attenzione, a un po' a rivoluzionare il genere e a portarlo avanti. E con lo 5 forse le ore di gameplay un po' di più, ma un po' peggio forse con la trama, con l'esecuzione della trama e con alcune scelte di design del multiplayer. Detto questo, scusate. Alma. Andrea, ben arrivato. Abbiamo un altro ospite, il terzo ospite aggiunto. Tu sei arrivato preciso perché stiamo per parlare dello stato attuale. Abbiamo parlato del passato, quindi abbiamo parlato di che cos'è Halo per noi, cos'è Halo, cioè in generale, così. Ora vogliamo un attimo parlare del presente, cioè qual è lo stato attuale di Halo. Attualmente c'è una collection, cioè una collezione che raccoglie tutti i capitoli principali, quindi Halo 1, Halo 2, Halo 3, Halo 3 ODST, Halo Reach, Halo 4, che si chiama la Master Chief Collection. Manca Halo 5 perché è ancora solo su Xbox One, è stato un po' come posso dire? Snobbato, scuso per ora. Però Andrea, tu hai un po'... aspetta, facciamo la stessa domanda che abbiamo fatto prima a Marco. Cioè, qual è la tua... che cosa sai di Halo? Cioè, qual è la tua esperienza con Halo? Io di Halo non so nulla. La mia esperienza è iniziata... è stata di 2 mesi. Ho giocato esattamente 2 mesi ad Halo. Non conoscevo nulla di Halo prima. Non ho avuto... cioè, diciamo che ho sempre avuto... cioè da più piccolo usavo la PlayStation, quindi non conoscevo l'Xbox, non ho giocato Xbox, quindi questi giochi me li sono persi, diciamo. E niente, ho provato la campagna, diciamo che ho fatto più multiplayer, la campagna l'ho provato, ho iniziato, l'ho trovata un po' pesante, un po' vecchia, un po' noiosa, però... non lo so, il multiplayer invece... è molto interessante, molto bello, per quanto io sia scarso, ma questo è un altro discorso. Però aspetta, la campagna dice hai provato quella di Halo 1? Ho provato, sì, Halo 1. Okay. Ho fatto qualche missione. Ci sta o ha detto una bestemmia? È invecchiato un po' male la campagna di Halo 1? No, questo è il rant. No, ci può stare. Ci può stare che è un po' invecchiata, effettivamente, non è... d'accordo. È come dicevate anche voi poco fa, abbiamo detto che i personaggi, soprattutto quelli dei primi capitoli, erano un po' semplici, diciamo, non esattamente il termine che avete usato, però... siccome dici, erano più... vecchio stile, no? Vecchio anni 90, come diceva Luca poco fa. Bruce Willis in Daya, cioè molto... ci sta. Però sì, cioè, quindi diciamo che ora come tua percezione è che non rinizieresti la campagna da... cioè, o almeno se non hai mai giocato la campagna, per te è un po' difficile entrarci, non ti è piaciuta la campagna della 1, quindi perché dovresti provare quelle dopo? Cioè, non hai il... Giusto, cioè questo... Oddio, per curiosità, io le proverei comunque, però sì, diciamo che non ti invoglia ad andare avanti se tu inizi, cioè ovviamente dal principio da Halo C. Poi, oddio, in realtà non so se Halo Reach viene prima, mi pare, giusto, però. Sì, tecnicamente sì. Ma invece il multiplayer, cioè questi 2 mesi l'hai giocato e diciamo, visto dal tuo punto di vista che appunto non hai la lente della nostalgia come noi. Esatto, sì. Quindi secondo te come è invecchiato? Specialmente quello di Halo 3, di Halo Reach, quelli insomma che hai visto un po' di più. Halo 3... per quanto... fatto, io credo, cioè, sia è bello, però anche quello lì c'è qualche problema di, cioè, rispetto agli FPS attuali, si sente che, cioè, si vede che è vecchio stile, non so. Già, non so, magari Reach e Halo 4 con le abilità, la corsa, eccetera, è un po' più fresco. Ok. Ma quindi, cioè, non so come dirlo, è una cosa che senti nella mancanza di alcune cose, tipo il fatto di non avere abilità o di non avere, che ne so, il pulsante per fare il ping, o non avere, cioè, cose che altri giochi moderni hanno? Sì, sì, aggiungerei queste cose per un, cioè, un futuro Halo, non so, infinito. Sì. Ok. Però a livello di, come dire, di gameplay, cioè di come funzionano le armi, di come sono fatte le mappe, non sembra così vecchio. Cioè non è... Esatto, non è esatto. Sì, quello che cercavo di dire. Sono sicuro che ti sarebbero d'accordo tutti, nel senso... penso di sì. Ognuno ha opinioni diverse, di mappe diverse, ma penso che la cosa principale di Halo, cioè il problema principale sia che manca quality of life, cioè ognuno ha un'idea di come devono essere fatte le abilità e gli equipaggiamenti, ma ci sono cose che assolutamente vanno rivoluzionate sotto quel punto di vista. Soprattutto, cioè, ho visto che davvero dopo aver giocato, penso letteralmente 2 ore ad Apex nella mia vita, ping deve essere ovunque. Cioè, avere la possibilità di pingare qualcosa, di dire guarda, è fondamentale. Perché non quello è vero. Noi siamo abituati. Noi le mappe le conosciamo, possiamo dire vai al giallo e sappiamo cosa stiamo dicendo, ma, cioè, uno inizia a giocare, il ping è fondamentale. Non lo so. Anche sì. Perché, cioè, anche noi che comunque abbiamo un po' di ore di gioco, anche specialmente su Halo 3, comunque andare a ricordarsi i nomi di tutte le zone, che poi all'epoca non erano neanche scritti, quindi erano nomi molto, cioè, spesso anche di fantasia, insomma, erano nomi comodi che la gente si inventava per la zona in cui eri. Poi hanno cominciato a mettere i nomi nelle zone delle mappe e già la situazione è un po' cambiata, ma inizialmente era un po', cioè, non era semplice, insomma. Infatti è stato un po' traumatico all'inizio, quando parlavate per esempio di zone, vai lì, lì dove, vai al giallo, vai, qual è il giallo? Però dai, sì. Battesimo di fuoco, adesso fai... Sì, sì, un po' lì, adesso sì. Però... Diciamo che i ping per la comunicazione sono abbastanza fondamentali adesso, perché, beh, lascia perdere Apex, che magari è anche, o puoi fare anche single player, di giochi di strategici, tattici, di squadra, cioè comunicazione, i ping per la comunicazione sono troppo importanti. Sì, Valorant. Io dicevo Apex perché è il primo che è uscito con questa roba nella mia testa. Mm-hmm. Beh, ma anche, una lo stesso cosa Valorant che... comunque. No, io dicevo solo lì ci sta, perché è una cosa che abbiamo imparato, ci abbiamo messo con gli anni di esperienza, abbiamo imparato che sono cose che assolutamente servono nella... Sì, questa è una cosa più oggettiva, diciamo, non è tanto di Halo in sé questa cosa. Tu pensi che un qualsiasi gioco di quegli anni abbia gli stessi problemi in questo caso, perché erano cose che ancora nessuno aveva mai provato. Voglio dire, gli sparatutto sono anche forse un po' iniziati con tutta questa fama per gli sparatutto con Halo, quindi lì è una cosa che a quel punto, quando il pubblico è esploso e si hanno avuto più feedback, più modi di sapere cos'è che poteva essere utile in un gioco di questo genere, abbiamo imparato che magari il ping e queste cose qui assolutamente da esserci. Piccola parentesi. Diciamo, a livello di una persona che si interfaccia per la prima volta, abbiamo sentito il caro Andrea che ci ha un po' detto la sua esperienza, però a livello di uno che magari ha seguito un po' la saga durante gli anni, penso che la maggior parte appunto siano giocatori dai tempi di Halo 2 e di Halo 3 come popolarità. La saga ovviamente è in un momento un po' di, come posso dire, di bassa, diciamo così. Non solamente in Italia, dove un po' è anche dovuto al fatto che in Italia principalmente siamo su PlayStation come giocatori, ma in generale come appunto popolarità della generazione della Xbox One, che un po' è calata, la popolarità di Halo 5 che un po' è calata rispetto a quelli precedenti, insomma. Diciamo che con la Master Chief Collection su PC c'è stata una nuova rinascita un po' di interesse, persone che hanno un po' rivisitato vecchi capitoli, ci hanno fatto video su YouTube, un po' di retrospettive e così, ma soprattutto è l'uscita di Halo Infinite che un po' sta risollevando la situazione, cioè c'è un po' la promessa di Halo Infinite come il gioco che riunirà la community di Halo di nuovo, nuovamente sotto lo stesso tetto, insomma. Il messia, Halo Infinite? O che porterà la sua rovina definitiva, diciamo. La speranza è la prima, però. Attenzione. La speranza è una delle due. Basta con il limbo, vogliamo o la morte o la vita eterna. Esatto, la gloria. La gloria. No, vabbè, come posso dire? La motivazione di questa speranza è che da tutti i trailer, anche quelli più insultati, è venuto fuori, insomma, che Halo Infinite sarà molto ispirato dal primo Halo, come filosofia, sia di design, di grafica, sia di... nel senso che fa schifo. Ah! No. Dal punto di vista di gameplay, cioè, tutto molto, come ho detto recentemente, sono molto ispirati alla missione di Halo 1 che si chiama Silent Cartographer, che è la missione... Oh, mio Dio. Gli incubi. Quindi qualcuno... per Andrea non è un buon punto a favore questo? Non so, era quella lunghissima, la terza, la quarta, quella lunghissima che non finisce mai, cioè non sai dove devi andare, quella lì. Oppure... quella dove devi andare, esatto, quella sull'isola, Andrea, bravo. Ok, perfetto. No, vabbè, abbiamo appena ucciso un altro fan di... I campani sono ispirati a quella missione in senso di, come senso di esplorazione, cioè loro dicono non avrai un corridoio, avrai una mappa un po' più aperta e ovviamente quindi come... Halo Breath of the Wild, mi stai dicendo? No. Speriamo. Hai comunque più strumenti per muoverti, hai più, cioè, hai tipo un rampino adesso, cioè comunque il gameplay è un po' modernizzato con un core di Halo, tutto un po' più dinamico come nemici, come incontri, eccetera, ma diciamo la speranza è che riunisca un po' a livello di sentimento, di trama e a livello di multiplayer tutte quelle caratteristiche che sono identificate con Halo, no? Quindi nel single player hai questa campagna molto variegata, con questa sandbox molto divertente, un'epica con tanta carne sul fuoco, e in multiplayer hai sia la parte cazzona, quindi hai modalità stupide tipo gravità dimezzata e razzi, sia modalità competitive, quindi dove avere partite classificate, gente appunto che fa competizione a livelli alti con mappe interessanti, cioè comunque la speranza da quello che si è visto finora è che il core del gioco sia solido, che sia qualcosa che è apprezzato dai fan, sia dai fan nuovi che da quelli insomma vecchi. Su carta suona molto bene, su carta. Bisogna vedere se poi deliverano, no? No, è un sacco bello perché la community è, cioè, può essere cancrosa, nel senso che puoi avere la persona che ti scrive nei commenti, ah no, se c'è la corsa lo odio, non ci giocherò mai, come puoi avere, ah no, questo gioco fa schifo e basta, devono fare come quest'altro, però il bello, tra virgolette, è che molti nella community fanno molto caso a degli elementi di design. Cioè, mentre io come posso dire, come lettore superficiale, a volte leggo discussioni su altri franchise, quindi tipo leggo discussioni di gente che gioca a Call of Duty. Il discorso che la gente fa, gente che gioca a Call of Duty, è: noi non vogliamo lo skill-based matchmaking. Cioè, noi non vogliamo che il matchmaking ci metta con gente che è brava quanto noi. Noi vogliamo giocare contro gente cessa, perché vogliamo fare tante distruggerli. Simpatica community. Questa mentalità nella community di Halo non l'ho vista molto, devo ammettere. Cioè, la mentalità è un po' diversa. È gente che ragiona molto su ogni dettaglio, quindi il rampino, per esempio, no? Il rampino che c'è nella campagna, molti sono chiesti, sarà infinito, ci sarà il multiplayer, sarà una cosa che puoi usare solo una volta, che raccogli, perché si rendono conto che cambia il ritmo di gioco, no? Sento un sacco discutere su come cambia il gioco, per esempio, avere due tipi diversi di un'arma a lungo raggio. Cioè, fanno molto caso alla sandbox, a elementi di design di gameplay che magari altre community non ci fanno, cioè non ci mettono troppo peso, non so come dire. Cioè, perché è vero che a livello di multiplayer è molto importante parlare di mappe, parlare di bilanciamento, eccetera, però è anche importante un po' capire come funziona a livello macroscopico tutto un po' il sistema che c'è dietro, no? Di armi, melee, granate. Quindi, tipo, una domanda nell'intervista che hanno fatto adesso di recente era: ci sarà il dual wielding? Che sembra una domanda, no? Tipo, potrò fare il figo con due pistole. In realtà è importantissima come domanda, perché il dual wielding, per esempio, ti disincentiva le granate come meccanismo. Infatti, certo, Halo 2 è molto criticato, il dual wielding, il fatto di esserci. Quindi, insomma, siamo, diciamola tutta, sembrerebbe che la community di Halo abbia dei gusti e riguardo stile di gameplay, riguardo effettivamente game design, leggermente più alta di quella di Modern Warfare, dicevi prima, no? Cos'era? Cioè, di Call of Duty, cioè, può sfociare un po' certo, mica siamo scemi. Shotfire. Può sembrare a volte che non vogliamo mai cambiamenti, cioè che la community di Halo non voglia che le cose cambino. Però è che, non so, cioè, oggettivamente, se qua mi posso permettere, direi sono due cose diverse: il non volere che le cose cambino e il non volere magari che la qualità si abbassi, perché è quello forse che, da quello che mi dici, sembrerebbe più quello. Vorrebbero che comunque la qualità, che se ho capito bene sia un po' abbassata con gli ultimi titoli, tornasse un po' ai bei vecchi tempi in quel caso, e in quello lì non dovrebbe esserci nulla di male in quello. Sempre come uno poi affronta questa cosa, nel senso come si esprime per questa cosa. Cioè, per carità, sicuramente qualcuno, anzi più di uno, cioè molte persone vorranno, fatemi solamente Halo 3-2, cioè fatemi un altro Halo 3 uguale Halo 3 ma con missioni nuove. Però io credo e spero che ci siano tanti che semplicemente, come dici tu, vogliono qualcosa che sia spiritualmente fedele ma rinnovato, modernizzato, e sembra forse che la direzione sia quella, forse. Secondo me un po' la differenza con i giocatori di... Vabbè, tu hai nominato i giocatori di Call of Duty, quindi mi rifaccio al tuo esempio. È anche un po' il fatto di tutta la lore costruita, di tutta la campagna, nel senso, un giocatore di Halo si aspetta determinate cose anche in base alla continuità della campagna, della storia, eccetera. Alla fine, invece, un giocatore di COD dice, vabbè, si gioca la sua campagna, che per ogni capitolo fondamentalmente è diversa, e quindi dice, vabbè, cioè, mi interessa, ma anche il giusto che ci sia una certa continuità, che ci siano, diciamo, determinati equilibri. Invece magari un giocatore di Halo è anche appassionato alla lore, alla community, al fatto che tutto debba più o meno avere un senso, e quindi è più, diciamo, non so come dire, scontento se poi qualcosa cambia troppo o cambia troppo verso il male, diciamo, fra virgolette. Il male. No, però hai detto con me giusto, perché adesso mi hai fatto pensare che Halo 3 ha molto pigiato l'acceleratore sulla community, cioè il fatto di condividere mappe, di poter creare mappe, dei video. Esatto. Cioè la community su Halo è molto importante, è molto viva, no? Cioè Halo 5, secondo me, una delle cose più belle che ha introdotto è il discorso della playlist con le modalità stupide, che alcune beh, sono cagate. Però. E le requisizioni, dimenticato. Sì. Comunque, questa cosa spiegatemela, che io non ho idea di che cosa sia. Ok. Praticamente Luca ama accumulare cose, soldi, dentro le cose così. Però una delle cose che amo accumulare sono le requisizioni, che sono praticamente delle carte su Halo 5, che potevi usare una modalità che si chiama Warzone per spawnare delle armi, dei veicoli potenti. Ok. Così. Che è una non competitiva, diciamo, tu capite, usi queste carte che ti danno quell'arma, quel veicolo, e quindi si gioca in tanti persone, cioè tanti, come si dice, squadre di grande dimensione, e ci si dà un sacco di mazzate. Quindi se la squadra okay. è tirchia... Ok. Luca usava tipo una pistoletta o... due granate che sparano ricotta... Taccagno Luca? Sì. Taccagno. Lo ero. Sì, perché no, volevo avere i numeri precisi, tipo 30 requisizioni di questo, 30 di questo. Quindi c'era Jacopo che usava tipo gli elicotteri, i carri armati, eccetera. Nel frattempo c'era io con la pistolina, quella di Made in Black, sai, quella che gli danno quella. Bella, carina questa modalità. Sì, vabbè, a te sarebbe piaciuta perché c'erano i pacchetti di carte, le cose da. Non so. Ehi, questo sì. È un colpo basso. No, però effettivamente era carina come idea, peccato che poi diventava, diciamo, nelle partite dove eri contro altre persone diventava un po' pay to win, che è un po' la cosa certo. Però era figa perché c'era la sparatoria che è tipo un'orda, cioè tu ammazzavi dei nemici in comune, dei nemici dell'IA, e ogni tanto c'erano dei boss, quindi la gente si sfasciava con 200 carri armati per ucciderli tutti insieme. Sì, lì letteralmente c'era il PvE, che se le persone si comportavano come me in maniera parsimoniosa, diciamo, lo perdevi, cioè nel senso era talmente difficile che non, se non usavi le armi così poi non riuscivi a ammazzare tutti i boss. Poi un'altra cosa è che i boss, cioè i nemici in Halo 5 erano fatti bene secondo me come design, quel tipo di nemico, i prometeici. In Halo 4 un po' meno. Halo 4 secondo me è proprio putridi. No, in Halo 4 proprio hanno sbagliato, cioè non, tu spari a un nemico, il nemico non ti dà il feedback che gli hai sparato, che penso sia una bestemmia in un gioco dove puoi sparare ai nemici. Urca, quindi mi stai dicendo che della saga il 4 è quello che ti convince di meno, diciamo, tra dirle in parole del genere? Come gameplay sì, a me personalmente okay. non piace. È quello più brutto come gameplay per me. Un po' rivalutato la trama, cioè rigiocandoci adesso capisco più cose, mi è piaciuto un po' di più, però gameplay. E qual era quello in cui c'è Nathan Fillion? Ok. Che Nathan Fillion fa Buck, che inizialmente è un ODST, cioè un parà, cioè uno che si spara sui pianeti dall'orbita. Mm-hmm. Ed è una specie di super mega Navy Seal Marine strafigo, però è ancora un umano. Poi diventa uno Spartan, certo. Spartan 4, cioè uno Spartan non rapito da adolescente successivamente. E... come bodybuilder naturale. No, beh, comunque le bombe, cioè si prende gli anabolizzanti e tutto, però lo fa da tutto, quindi... La famiglia quindi va fa bene. Esatto. Viva gli steroidi. Però, io non sono d'accordo, se lo vuoi proporre, ne facciamo un altro come bambini, quelli rapiti. E lo sostituiamo. Bene. Non so se avete altre cose da dire su Halo Infinite o su Nathan Fillion. Qualcuno dica qualcosa di... Sì? Ma dice qualcuno dica qualcosa di... non è proprio la parola che cerco, ma compromettente, qualcosa di che faccia arrabbiare, qualche opinione non proprio comune della community, magari. Che... Halo 5 è bello. Halo 3 fa schifo. Ah, mi dissocio. Quello si becca più in su, secondo me. Sì, proprio. No, vabbè, la carbonara va fatta con la sottiletta? Porco. questo nuoce gravemente. Light. Ancora peggio. Stai dicendo qualcosa prima? No, vabbè, stavo solo dicendo che di Infinite sarà interessante vedere un po' come organizzeranno la campagna, cioè nel senso che sarà una sorta di, cioè non proprio un open world, sarà un open map. E un po' come Halo 3 DST, secondo me è molto interessante come sviluppo gioco. Diciamo, sono molto curioso di vedere come sarà. Sì, sono curioso anche di vedere il Battle Royale con le skin di Fortnite quando lo metteranno. Oh no. Però stavo scherzando. Cioè, quindi mi stai dicendo che Fortnite è il nuovo Halo, è questo che volevi dire? Oh no. Oh, comunque lascia perdere, la skin di Master Chief ha fatto arrivare un sacco di bambini, di ragazzi. Beh, in effetti non ci pensiamo, ma c'è questo aspetto positivo, tra virgolette, del mettere... Insomma, chissà quanti 2000, dai 2010 in poi hanno visto Alien, il film originale, adesso che... è vero. C'è la skin. Sì. Cioè, un sacco di roba che magari, appunto, se sei nato nel 2009 non sapevi che cazzo era, perché avevi letteralmente un anno o meno 2 anni quando è uscita. Adesso magari la... Ok, ci penso che anche dalla battuta di Spider-Man in Infinite War, quando dice c'è questo vecchio film che si chiama Alien sulla... è vero! secondo me è anche figo, cioè anche bello come coincidenza che abbiano messo come primo gioco su PC Halo Reach, perché così molti, la prima esperienza che hanno avuto è di Halo Reach, che non ha necessità di cose pregresse, cioè non devi sapere cose che sono successe prima. È un po' un gioco a sé stante che puoi anche giocare solo quello. Bello, bella pensata. Ed è quello più recente che ha fatto la Bungie, quindi non è, cioè, come coincidenza è positiva, secondo me. Forse non era una coincidenza. No, era una... Io credo di sì. No, nel senso, era una coincidenza, nel senso, spiego, hanno portato su PC la Master Chief Collection, però siccome ci sono le pezze al culo, che è un team molto piccolo, dovevano un po' giustificare, no, il fatto di portarla su PC, quindi hanno fatto un po' una cosa a scaglioni, cioè gioco per gioco, non hanno fatto tutto subito. Mm-hmm, sì, me lo ricordo anch'io. Quindi, che siccome... era uscito... esatto, siccome l'unico gioco che mancava era Halo Reach su Xbox One, hanno fatto quello per primo su entrambe, per giustificare un po' i costi di sviluppo, perché almeno su Xbox One tipo costava 10 euro se volevi aggiungere la campagna. Ah, non lo sapevo questo. Sì, cioè è tutto per far riquadrare un po' i conti e non finire col culo per terra un'altra volta. E adesso cioè, hanno un po' sistemato anche il matchmaking negli anni, hanno messo le cose, le season con i cosmetici, le cose, sì. Carini, bravi. Tanto di cappello. Stronzi che hanno tolto i colori solo Infinite. Vaffanculo. Come, scusa? una cazzata, hanno tolto praticamente in tutti gli Halo, di solito potevi cambiare i colori della tua armatura, potevi avere un colore primario e un colore secondario. In Halo Infinite non potrai, cioè ci sono solo le skin, quelle collezionare, cioè sono skin che puoi trovare, però non puoi fare come ti pare con gli schemi color. Capisco. Vero? No, non puoi. Cioè, mi dà l'idea, capito, che puoi avere un colore solo, cioè su tutta l'armatura e basta, però se tipo vuoi fare un'armatura mezza rossa, mezza bianca, non puoi, cioè puoi trovare solo le combinazioni loro. Ah, oh, wow. Non lo vedo. Un po' stronzi. Beh, detto questo, siamo arrivati al momento che tutti stanno aspettando, ovvero la fine, no, non la fine del podcast, la rubrica il momento Kojima. Sigla. Kept you waiting, huh? La sigla non c'è perché, come al solito, non ce l'abbiamo in live, non ci abbiamo. Dobbiamo prendere la console come Edo per metterla. Beh, ci starebbe. In questa puntata parleremo del rapporto fra Kojima e Halo. Esiste questo rapporto? Non ne ho idea. Anche perché credo che nel 2001 la maggior parte dei giochi di Kojima fosse già abbastanza, almeno quelli riguardo la saga di Metal Gear, un po' uscita già, nel senso avesse già in mente quello che voleva fare, quindi... Ma in pochi sanno che in realtà Kojima ha dato il titolo della saga di Halo alla Bungie. Esatto. Come in Social Network, no? Che c'è il tizio di MySpace che dice: perché non lo chiamate solo Facebook? Prima era di Halo, esatto. Di Halo, adesso solo Halo. Mi è arrivato Bill Gates e ha aggiunto Combat Evolved, perché è troppo poco. Halo. Aggiungiamo qualcosa a casa. Esatto. No, vabbè, secondo me il rapporto fra Kojima e Halo è... si scopre poi nella biografia postuma di Kojima, che è veramente così. Noi siamo stati... Ne faremo la fine dei Simpson. Avevano previsto tutto. Esatto. Non lo so, non so. Secondo me il rapporto è tipo che sono due serie che sembrano abbastanza militariste, però in realtà sono pacifiste. Non so, però è difficile da vedere nei giochi, si vede molto di più nei... Secondo te, perché tu di nuovo sei quello che ha più toccato con mano in questo caso, lo combattimento di Halo ha influenzato poi magari il combattimento degli ultimi titoli di Metal Gear, se non anche magari in maniera molto più minimale quello di Death Stranding? Non credo, cioè molto da lontana. Potresti dire la stessa cosa di tutto, cioè nel senso è... Tu dici un po' è diventato quasi un po' come quarto potere, nel senso che decisamente è stato inneggiato a precursore di tutto, che dici qualsiasi cosa può essere preso da questo, senza poter mai esserne sicuro al 100%, però. Esatto. Non lo so. Esistono interviste in cui Kojima dice che gli piace Halo, così è... Non penso proprio. Ma possiamo forse vedere le spiagge di Death Stranding un po' come un Halo metaforico? non penso proprio. Non so, se mai ci sarà un collegamento sarà in Smash Bros, cioè ci sarà Snake contro Master Chief, prima o poi. Sarà la battaglia. Ormai è inevitabile, cioè manca solo lui. Ci hanno ficcato letteralmente tutto. O su Fortnite, metteranno la skin di... Di Solid Snake, sicuro. Di Solid Snake, Sicuramente. Tanto la Konami vuole solo soldi, quindi... Comunque, introito è ben accetto. Preferirei la skin di Mads Mikkelsen Fortnite, non un personaggio di Mads Mikkelsen, proprio Mikkelsen. Comunque, ora ci pensavo, cioè rifare il remake di Metal Gear Solid 1 per me, cioè, è abbastanza hype, cioè nel senso lo penso che ci perderei la testa, però fare anche un remake di Halo 1 ci potrebbe quasi stare, perché come dice Andrea è quello che è invecchiato peggio. Quindi, cioè, forse il collegamento ci sarà, perché tipo nello stesso giorno usciranno i due remake di Terminator Solid 1 e di Halo 1 e... non lo so, saranno entrambi sul Game Pass. Beh, questo, no, questo so. È davvero fantascienza. Oh, porco. Tutto bene? Ma avete sentito il casino? No, che è successo? Oh, madonna. Sì, un tum. Penso che mi sia caduto un fulmine di fianco a casa. Oh, ah, no, io ho sentito solo il tonfo di qualcosa sulla tua scrivania, credo. Sì, no, esatto. non era il tonfo sulla mia scrivania. Cioè, era no, molto vicino alla mia scrivania. Era un pitozzo di Edoardo. Ma che... Porca miseria. No, scusate, però mi ha preso un culo. No, tranquillo. Questo era il segnale che Kojima ci sta ascoltando, quindi forse è meglio... Sì, forse è meglio non nominarlo ancora. È meglio finirla qui. Va bene. Allora, dai, prima che Dio ci punisca, vi ringrazio tutti per aver partecipato. Assolutamente. Grazie a voi. Grazie a tutti per essere qui. Per essere passati, no? Eravamo... quindi no, a questo punto no ci vogliono le presentazioni tutti insieme dopo di me, tutti al proprio turno. Io ero Marco. Io ero Jacopo. Io ero Edoardo. E io ero e sono Luca. Ah, fa sempre fare quello. Andrea, dai, su. Ah, devo io ero Andrea, ma non lo sono più. Grazie per aver ascoltato il 29esimo episodio del Focolare Elettrico. E niente, continuate a giocare. Ciao a tutti. Ciao.